Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti, oggi giovedì 16 settembre, siete su Liberi Dentro Eduradio TV, la nostra trasmissione quotidiana che parla tra carcere e città, iniziata con la pandemia ma che prosegue tutti i giorni, un'ora al giorno, cercando di avvicinare quello che è il mondo delle carceri alla nostra società. Io sono sempre Caterina Bombarda con Antonella Cortese alla conduzione di questo programma. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Continuiamo la rassegna stampa, la cronaca sociale di questi giorni. Da lunedì vi sto raccontando l'indagine esplorativa pubblicata da Repubblica, Ragazzi Dentro, un'indagine sulla delinquenza giovanile. Nei giorni scorsi abbiamo presentato un po' di dati sulla delinquenza in Italia e abbiamo parlato del fatto che c'è un grosso divario tra Nord e Sud Italia, rilevando come al Nord non solo si delinqua di più, ma ci sia anche una criminalità mista tra stranieri, il 30%, italiani, il 70%, e come al Sud si abbia una delinquenza prevalentemente autoctona. Ma oggi parliamo di una questione ancora più delicata, quella riguardante la presenza e il numero di bande minorili nelle principali città italiane. Intanto facciamo una precisazione, siccome tante volte si sente parlare di baby gang a sproposito e ogni qualvolta si verifica un reato in cui sono coinvolti insieme più minori o giovanissimi. Negli ultimi anni si è parlato di gang di latinoamericani massicciamente operanti al centro-nord e al sud, prevalentemente a Napoli, Bari e Catania. Però Caterina, c'è una definizione per baby gang? Ma allora, della questione si è occupata proprio specificatamente la Commissione parlamentare per infanzia e adolescenza, che ha prodotto un interessante report definendo la baby gang come gruppi di adolescenti poco più che bambini che riproducono dinamiche tipiche della microcriminalità organizzata. Quindi non sono reati che coinvolgono minori, sono reati dove i minori fanno le stesse cose che si fanno nei gruppi di criminalità adulta sostanzialmente. Quindi è molto grave, è una cosa molto preoccupante. Queste gang presentano un fenomeno complesso che non si identifica con quello più ampio della criminalità minorile dei singoli, né con quelle delle gang giovanili, e anche se deve essere differenziato dal bullismo, lo si può ritenere una forma organizzata di bullismo. Però ci sono anche altre caratteristiche. Ogni banda ha una durata breve, la sua attività si esaurisce dopo pochissimo tempo dal reato, è un fenomeno che non è strutturato e non è organico come quello criminale degli adulti e che però suscita un grave allarme sociale per la giovanissima età dei componenti. E anche nella composizione, nelle attività e nelle motivazioni delle baby gang si può parlare di una grossa differenza tra nord e centro e sud Italia. Nel centro-nord l'aggregazione è in gran parte etnica, nel sud è sociale e di appartenenza territoriale. Ma anche le motivazioni sono preoccupanti. Pensate che se le principali motivazioni del crimine minorile sono la deprivazione, la noia, l'identità e l'emulazione, nelle baby gang del centro-nord prevale come motivazione l'identità, in particolare per gli stranieri, cioè delinquo perché voglio affermare la mia identità sociale. Mentre per noia sono le motivazioni degli italiani, delinquo perché mi annoio, perché non so che cosa fare. Mentre nelle band del sud prevale l'emulazione delle criminalità più adulte e anche lì una ricerca di identità. Caterina, questa cosa qua mi sconcerta in realtà, perché io pensavo che fossero dovute a bisogni materiali, persone che si aggregano per appunto motivazioni di questo tipo, invece non è così. Invece non è così, perché quasi mai le baby gang si aggregano per bisogno di beni che non hanno, anche se commettono reati predatori, pensiamo ai furti. Prevalgono invece l'identità e la noia, che prevalgono sul bisogno. Inoltre questi gang hanno forti connotati che le identificano, per esempio tatuaggi, monili che usano, un certo tipo di marche, anche un certo utilizzo di droghe specifiche, e poi molto spesso spettacolarizzano sui social le violenze fatte subire, una specie di estetica della sopraffazione, tutto per il gusto di trasgredire, umiliare, sottomettere o sopraffare. Inoltre è importante il rapporto con la lingua e la scuola. La composizione della baby gang è per la maggior parte composta da ragazzi non scolarizzati che hanno rifiutato di continuare la scuola o che semplicemente la frequentano senza alcuna motivazione. Caterina, questa è una domanda necessaria. Come incide il degrado urbano? Allora, i luoghi del degrado urbano, l'abbiamo già detto, e del malessere sociale e la questione minorile sembrano coincidere. Infatti, i dati che impressionano di più sono i seguenti, cioè è considerevole il numero di minori in istituti di pena che non ha completato la scuola elementare, che viene da famiglie numerose, molto numerosi, oppure famiglie dove almeno un componente familiare, un genitore, un fratello, un nonno, uno zio è stato in carcere. Risultato, i minorenni, che delinquono sono in linea di massima figli, fratelli, nipoti, di persone già pregiudicate e che hanno cominciato prestissimo con una inculturazione, diciamo, illegale. Per tutti questi motivi, Napoli purtroppo rappresenta una particolare originalità nella storia del disagio urbano, pur non essendo la città con la percentuale più alta di criminalità minorile, perché qui siamo di fronte a emulazione delle criminalità organizzate, più difficili in Italia, perché per i clan mafiosi, i camorristici, eccetera, eccetera. Ma ora un brano musicale, Napulè di Pino Daniele. E noi ci rivediamo tra pochissimo. Napoli è mille colori, Napoli è mille paure, Napoli è voce e creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli è un sole amaro, Napoli è adore mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno aspetta sciorta. Napoli è una camminata, rende vita mia salata. Napoli è tutto un sogno e a sabato tutto muore. Rieccoci, bentornati. Dopo la pausa musicale riprendiamo con te, Antonella, la storia delle calciatrici di Herat. Sì, ritorniamo alla storia che ci ha raccontato Stefano Liberti, il giornalista che le aveva incontrate qualche anno prima, e poi era stato contattato il 14 agosto con il famoso messaggio su via Messenger: "Hi sir, we are in trouble, can you help us?" che ha messo in moto tutta una macchina per il recupero di queste ragazze, per salvarle. E ovviamente l'unica via di fuga era l'aeroporto di Kabul, a 850 km da Herat. Lo scalo locale era chiuso da quando la città è stata conquistata dai Taliban, e quindi le calciatrici, che già avevano fatto una gran fatica per pianificare questa cosa, devono sobbarcarsi un viaggio molto lungo e pericoloso su una strada costellata da checkpoint. Infatti, alla fine, solo su tutto il numero delle calciatrici, 5 si dicono pronte a partire insieme alle loro famiglie. Anche l'allenatore, tra l'altro, decide di provarci, e la lista completa viene subito trasmessa ai ministeri della difesa e degli esteri. Susan continua a mandare i messaggi ovviamente al giornalista, in cui descrive la situazione, dice che le ragazze sono tappate in casa perché temono che i Taliban vengano a cercarle. Questa era una cosa che era girato anche molto sui nostri quotidiani nazionali. Poi il pomeriggio del 23 agosto il gruppo parte alla spicciolata da Herat su diversi autobus, ricevono istruzione di staccare i cellulari e di non farsi sentire fino a quando non siano arrivati a Kabul. La mattina del giorno dopo cominciano ad arrivare messaggi delle ragazze che erano giunte sane e salve, per fortuna, in diversi luoghi sicuri della città, ma nel frattempo l'accesso all'aeroporto diventava sempre più complicato perché i Taliban dichiarano in conferenza stampa che non avrebbero permesso agli afghani di abbandonare il paese e avrebbero quindi bloccato l'accesso allo scalo. La grande fortuna è stata quella di che ci fosse Abdul, un collaboratore del COSPE, anche lui inserito nelle liste delle persone da fare espatriare, ed è stato lui praticamente il thread d'union con le ragazze, le ha chiamate, le ha guidate passo passo e alla fine sono riuscite, non tutte perché due delle cinque non sono riuscite a partire perché fermate dai Taliban e quindi hanno rinunciato, però tre sono riuscite ad arrivare all'aeroporto. Una situazione di queste ragazze nella difficoltà a partire, ecco, anche comune tante altre persone, immagino. Sì, immagina Caterina che insieme alle nostre calciatrici e ad Abdul c'erano una quarantina di persone, tutte inserite tra l'altro nelle liste del COSPE e di Road for Equality, che è una ONG che sostiene il gruppo di cicliste arrivate a Kabul. E tutti chiaramente aspettavano i segnali per poter accedere all'aeroporto. Molti avevano dei segni, diciamo, di riconoscimento sul corpo, proprio per poter essere identificate. E poi quando arriva l'alba, le foto, arrivano anche le foto che dimostrano quello che sta succedendo. Il gate è preceduto da un fossato pieno d'acqua, che poi lo scarico di una fogna a cielo aperto, e c'è un ponticello minuscolo che permette di varcare il fossato. Questo l'abbiamo visto anche noi tutti per televisione. Dietro ovviamente c'è una folla che si accalca, che spinge, la situazione è drammatica, alcune persone cadono, i bambini vengono portati via per non finire schiacciati e le ragazze finiscono mani e piedi dentro questo fossato sporco e schifoso. Alcuni del gruppo COSPE rinunciano e tornano a casa. E anche le tre calciatrici e l'allenatore cominciano a disperare. Quindi questa attesa lunghissima, oltre lo sferimento, è stata anche pericolosa. Eh sì, Caterina, pensa che le ragazze messaggiavano dicendo aiuto, sono più di 20 ore che siamo qui insieme a migliaia di persone dentro una fogna e avevano ormai perso le speranze, come anche, diciamo, gli italiani che le stavano aiutando. E poi per fortuna arriva in chat la notizia che uno del Tuscania è fuori con una torcia rossa. Si riattivano messaggi frenetici, ma le ragazze purtroppo non lo vedono. Si perde di nuovo la speranza, ma poi per fortuna, del tutto inaspettato, arriva il messaggio più bello. Hi dear, we entered, we are together, we are so happy. Sono le 10 di sera di mercoledì 25 agosto, 19:30 in Italia, e dopo 48 ore di viaggio e 24 ore fuori dall'Abbey Gate, le tre ragazze, l'allenatore e le loro famiglie sono al sicuro. Cosa mi dice degli altri collaboratori del COSPE? Purtroppo non vale lo stesso per l'altra parte del gruppo, i Tuscania non li hanno trovati e quindi sono dovuti rientrare, ma Abdul, come ti dicevo, è stato lui che ha mandato avanti tutto questo processo di recupero, manda la posizione, tiene alto il morale, poi all'improvviso tutto si sblocca perché il resto del gruppo riesce a entrare all'interno della Bay Gate. E sembra tutto andato a lieto fine finché non succede l'irreparabile. Un attentatore suicida si esplodere proprio alla Bay Gate, scene strazianti, cadaveri dovunque, il canale di cui vi parlavo prima diventa rosso di sangue. È il segnale finale, l'operazione si conclude. Nessuno uscirà più dalla Bay Gate. E quindi, insomma, molte persone purtroppo sono rimaste lì e c'è il rimpianto da parte di chi aveva organizzato tutta questa missione di non aver potuto far venire via tutte le persone che si erano iscritte in questa lista. E Caterina, a questo punto io ti farei sentire un brano un po' datato, però si chiama, ha un titolo bellissimo, I Saved the World Today, degli Eurythmics, Annie Lennox e Dave Stewart. Ascoltiamolo. Finds you like a bomb that's been left ticking there too. Bentornati a tutti su Liberi Dentro di Radio TV. Mi sto facendo una diretta fuori dal mio ufficio, ma vi spiego subito il motivo. Ho stampato le newsletter al centro oleografico BM di Bologna per portarle ai detenuti, le newsletter di Eduradio, la nostra rassegna della settimana, e sono qui perché sto aspettando Ignazio De Francesco, che mi sta per venire a prendere. Stiamo per andare al carcere per fare i colloqui personali. Come sapete, le attività di gruppo è difficile farle, soprattutto al tempo del Covid-19, però alcune sono riprese, quindi abbiamo la speranza che tante cose ripartano in presenza. Io un anno e mezzo fa facevo gruppi anch'io, anche con l'associazione AVOC di volontariato, poi anche con le insegnanti, e quindi sono un po' emozionata perché i colloqui privati, colloqui con i detenuti, non li ho mai fatti. Ma adesso che arriva Ignazio vi racconterò, anzi chiederò a lui, lo intervisterò per chiedergli che cosa significa fare colloqui personali al tempo del coronavirus, dopo il coronavirus, che cosa è cambiato e soprattutto qual è l'importanza di entrare in luoghi così un po' nascosti della nostra città per incontrare persone che sicuramente un po' hanno necessità, bisogno di parlare, hanno tante cose da dire e certamente non hanno mai opinioni banali. A tra pochissimo. Eccoci, Ignazio mi è venuto a prendere a casa, sono con lui. Ignazio, che significato ha per te fare colloqui in carcere in questo periodo anche molto particolare, il tempo del Covid-19? Dunque, andare in carcere significa andare a esprimere un senso di amicizia, anzitutto, con le persone recluse. E dirgli, guarda, qualsiasi cosa tu hai fatto, piccolo o grande che sia, io sono qua per dirti che sono una persona come te e che ti voglio incoraggiare. Quindi un atto di incoraggiamento. E questo perché c'è molto bisogno, perché uno dei rischi maggiori che si corrono in carcere è quello di perdere il coraggio, scoraggiarsi, quindi perdere la speranza, quindi disperarsi e quindi rotolare sempre di più. Quindi un semplice atto di amicizia, sappiamo che noi come volontari possiamo dare veramente pochissimo alle persone in carcere, ma l'amicizia la diamo. E insieme a questo esprimiamo il senso della cittadinanza in quel famoso articolo della Costituzione che dice che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione, oggi diciamo risocializzazione, della persona che è stata condannata. E quindi anche come volontari testimoniare che il carcere non è solo chiave, purtroppo si traduce tante volte in solo la chiave, solo la porta chiusa, e sappiamo tanti che dicono la chiave poi deve essere buttata, ma non è così che hanno voluto i padri costituenti. Hanno pensato il carcere in un modo diverso, non hanno parlato della pena come vendetta, come taglione, hanno parlato della pena come momento di rieducazione, quindi anche per testimoniare queste cose. E poi l'ultima cosa, io vado in carcere per imparare. Per me è la mia università. Le persone... Cosa impari, Ignazio? Cosa ti insegnano? Ma innanzitutto direi il bene della libertà. Il bene della libertà. Bisogna stare una settimana sotto chiave per sapere cosa significa poter camminare per le vie di Bologna avanti e indietro, povero ricco che sei, ecco, sedersi dove vuoi, accendere la televisione quando vuoi, mangiare quando vuoi, incontrare gli amici che vuoi, cioè tutte le cose che sono le cose normali della vita in carcere vengono regolamentate e molto compresse. Pensa alle telefonate, puoi telefonare quante volte vuoi, con chi vuoi, e tutto il resto, quindi il bene della libertà. E poi i problemi che sono i miei problemi anche, perché le persone che sono in carcere sì, hanno commesso degli errori, a parte gli innocenti che ce ne sono sempre, ci sono gli errori giudiziari, che non vuol dire che il giudice è in malafede o è stato corrotto o pagato, anche se può accadere, la storia è accaduta anche di quello, ma semplicemente il giudice non ha capito, non ha interpretato bene i dati. Quindi ci sono gli errori, ci sono gli innocenti, però tante persone hanno sbagliato e questi errori sono gli errori che circolano nelle vene della nostra società. Pensate quanta gente è in carcere per gli stupefacenti. Tutte quelle persone lì che sono state condannate, piccoli spacciatori, grossi spacciatori, è per il nostro bisogno di sostanze calmanti o eccitanti. Se domani non abbiamo più bisogno di quelle sostanze, ne facciamo a meno, sparisce quella cosa lì. E così da tanti altri problemi. Pensiamo a quelli che sono reclusi nella sezione dove ci sono i reati sessuali. Sono le problematiche del nostro tempo. E quindi e così tante altre cose che dicono che in fondo il carcere è in qualche modo la psiche profonda della nostra società. I malesseri del nostro mondo si toccano lì. E quindi avere contatto con queste persone che pagano per quello che hanno fatto è anche un modo di una istruzione per noi, una spinta a cambiare le cose per cui quei reati non si commettano più. Grazie Ignazio, adesso fra poco entriamo. Arriviamo, entriamo. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. un principio di energia che mi spinge a dondolare fra il mio dire ed il mio fare. E sentire fa rumore camminare tra gli ostacoli del cuore. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme, quante cose che non sai. E dopo aver ascoltato l'intervista a Ignazio De Francesco, uno speciale che ho girato mentre lo accompagnavo al carcere della Dotta sul significato dei colloqui in carcere, noi ci salutiamo, ma c'è sempre la rubrica a seguire, abbiamo le pillole di Antigone e a seguire Voci dalla Scuola, sempre su Lepida TV ore 1:30, mentre alle ore 17 sul canale Teletricolore 636 e alle ore sempre 6:30 sulla radio. Scriveteci redazione liberidentro @gmail.com e allora io, Antonella ed Enea Flacco della redazione vi salutiamo e vi ridiamo appuntamento a domani. Ciao! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.